Nuovi vicini plurali è in realtà una serie di documentari che raccontano storie di migranti. Antonello Savoca presenta In the Ghost Town. Che cosa racconta questa storia? Allora, In the Ghost Town, appunto, come dicevi tu, è un episodio di una serie che l'Eurovisione ha prodotto sulle questioni dei migranti dentro comunità, diciamo, locali, nazionali. Racconta la storia di John, un nigeriano che con la sua famiglia vive in un piccolo paese sperduto della Sicilia. E incontra una persona, Franco, un pizzaiolo, che lo aiuta nel tentativo di trovare un lavoro, di trovare una strada in Italia e in quel piccolo paese che è Sutera, nell'entroterra siciliano, in provincia di Caltanissetta, credo. Quindi la storia è quella tra John, che ha una famiglia, che ha un piccolo bambino, che cerca di trovare spazio in quella piccola comunità fatta di circa 500 abitanti, forse anche meno. Quindi raccontiamo questo. Raccontiamo il tentativo di Franco di aiutarlo, ma anche, diciamo, senza voler fare spoiler, anticipare nulla del film, del nostro documentario, il tentativo spesso, diciamo, la volontà non basta, ecco, la volontà di Franco di aiutare John spesso non è quella sufficiente per poter dare a John la possibilità di stare a posto con i documenti. Insomma, è una storia semplice ma complessa per il contesto, noi poi raccontiamo l'umanità di questo rapporto, tutto ciò che può riguardare la questione, appunto, dei migranti in Italia, delle varie strade dell'accoglienza e il fuoricampo. Chi lo conosce lo può immaginare. Noi, appunto, in 30 minuti abbiamo raccontato una storia anche un po' di amicizia tra i due. Si parla, appunto, di una piccola realtà, come dicevi tu. Come è stato entrare nella vita di queste persone? Allora, diciamo, non è stato semplice. Noi ci siamo appoggiati a coloro, appunto, che avevano accolto John e la sua famiglia, uno SPRAR che si trova, appunto, a Sutera. Il problema è stato anche quello un po' della lingua, perché John, nonostante sia in Italia da 3 anni, non parla bene l'italiano. Poi abbiamo fatto diversi incontri precedenti alle nostre riprese. Diciamo, non è stato semplice, ma voglio dirti che alla fine c'è stata grande disponibilità da parte di John. Poi spesso alcune cose non hai nemmeno, come dire, il tempo per chiedere certe questioni riguardanti la vita privata, il perché è andato via. Quello non l'abbiamo chiesto perché ci sembrava di essere troppo morbosi nel sapere, non era quello che ci interessava. Comunque, diciamo, grande disponibilità sia da parte di John che da parte di questa piccola comunità di Sutera. Che cosa volevate far arrivare, far percepire al pubblico raccontando questa storia? Beh, guarda, abbiamo cercato di seguire il concept del format, che era quella di raccontare, appunto, la storia di vicini, di un nuovo vicinato, che è il progetto, appunto, dell'Eurovision. Ma in generale non avevamo immaginato, come dire, a priori cosa volevamo raccontare. Volevamo raccontare una storia, insomma. Questo lavoro, alla fine, come dire, è molto semplice nel suo scopo, raccontare una storia. Penso che ci siamo riusciti. Ma in generale anche l'atteggiamento di John nel finale, insomma, del film, ti fa capire che in tutto non poteva essere previsto, quindi in generale non avevamo immaginato un finale prima di girare, ecco. C'è stato invece qualcosa, una sensazione, un'emozione che hai trovato più difficile da rendere in pellicola, da rendere visivamente? Sicuramente le motivazioni, ad esempio, che hanno portato John ad andare via dalla Nigeria, difficili da raccontare, se non l'abbiamo raccontato in un piccolo fuoricampo, peraltro raccontato sia da lui che dalla moglie. Diciamo che non lo so, sai, è difficile perché poi sono storie, quelle degli individui, c'è tanto non detto, quindi secondo me bisogna mantenere una distanza che ti permette anche di cogliere il non detto, non lo so, quello secondo me è una cosa pure importante di cui prendersi cura. Certo. E ricordiamo quando sarà presente In the Ghost Town all'interno di Terre di Tutti Film Festival? Allora, sarà in proiezione alle 18 del giovedì 8 ottobre.